questo ancor che sen viene, ed egli eroe concorre al soglio, intrepido ritarda le grandezze ad arpato. Quest'altro ancor mi piace, oh come vano! L'amica si risveglia, oh gelosia! Amante son, e consigliar la deggio alle nozze d'altrui, con pena mia. Principessa, rimira il maggior dei vassalli, il più caro a tuo padre, il più fedele. Quanto prai, quanto feci, a pro di tua corona e del tuo impero, chiedilo altrui, chiedilo al mondo intero, e sarà testimone delle premie. Perché no? E Arpago? Non è tuo sposo ancor? Ben avere puoi più amanti, Dario, Oronte, Arpago, ed altri tanti. Come così? Prendi la destra! È giusto!